Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi propongo uno scrittore molto gradevole, abituato peraltro a farci riflettere su temi importanti, dalla filosofia all'amore, da Proust al lavoro. Ne abbiamo parlato già anche in questa trasmissione per altri libri. È Alain de Botton, svizzero trapiantato a Londra, che adesso pubblica con Guanda Del buon uso della religione, una guida per i non credenti, 288 pagine, 17,50 euro, tradotto da Ada Arduini. Questo è il contrario di un libro a geografia grafico e in lode della religione da parte di una persona che crede, perché l'autore è decisamente ateo e proveniente da una famiglia di atei convinti, che però sente adesso il bisogno, con il suo stile lieve e ammiccante, di fare appunto i conti con le religioni, soprattutto con il cristianesimo, con l'ebraismo, che è la sua religione di origine, e con il buddismo, per lanciare una sfida agli atei, e cioè dimostrare che le religioni servono. La società laica, secondo De Botton, infatti, non riesce ad affrontare almeno due aspetti che invece sono pane quotidiano per le religioni, cioè il bisogno e il modo in cui si possa stare insieme e la presenza della sofferenza nella vita dell'uomo. Scrive l'autore che l'errore dell'ateismo moderno è quello di ignorare gli aspetti delle religioni che rimangono apprezzabili anche dopo che i loro dogmi vengono confutati. E compie l'autore questa disamina affrontando vari capitoli, molto illustrati tra l'altro, che sottolineano come l'approccio religioso si dimostri tutt'altro che superato. Dall'istruzione all'arte a tanti altri aspetti della vita, De Botton conclude che la saggezza delle fedi religiose appartiene all'umanità, anche ai più razionali di noi. A volte le religioni sono troppo utili, efficaci e intelligenti per essere lasciate solo a chi crede. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno ad Alain de Botton. Hello. Alain de Botton, lei insiste nel suo libro sull'utilità sociale della religione, la considera uno strumento per esempio per capire come si può vivere meglio insieme, per comprendere la sofferenza. Ecco, secondo lei perché gli atei non accettano questa dimensione sociale della religione? Penso che per capire se siamo interessati o meno alla religione, dobbiamo domandarci se crediamo in Dio oppure no. Io credo che questa sia una domanda molto noiosa. Non mi interessa affatto. Non credo in Dio, ma conosco persone che ci credono. E penso sia impossibile trovare un accordo su questo. Credo sia meglio semplicemente ignorare la domanda. Se prendiamo in esame la religione e ci chiediamo cosa sia, possiamo cercare di scoprire cosa contenga di interessante e di utile. Io credo che ci sia moltissimo che noi atei possiamo imparare dalla religione su ciò che ci serve per fare una buona società. Lei osserva nel suo libro che esso farà arrabbiare sia le persone atee che i credenti. I credenti, per esempio, non sosterranno che è proprio la fiducia in Dio che spiega l'esistenza delle religioni? La mia posizione è un po' paradossale, perché da una parte dico che Dio non esiste, ma dall'altra parte sono pieno di rispetto per ciò che fanno le religioni e per il loro atteggiamento. E questo è paradossale, perché solitamente ci si aspetta che la gente odi tutto della religione, o viceversa, che ami tutto. La maggior parte di noi non la pensa così. Lei parla della posizione dei libertari, secondo i quali oggi è quasi impossibile decidere che cosa sia buono e che cosa sia cattivo. Ciascuno è giudice delle proprie posizioni e non c'è nessuna autorità che possa imporre una particolare visione, un particolare canone morale. Questa non è una posizione molto simile a quella del Papa contro il relativismo? Quello che cerco di evidenziare è che nella maggior parte dei suoi aspetti il relativismo è esagerato. Ci sono alcuni temi dove non sappiamo cosa sia giusto, come ad esempio l'aborto, ma nella maggior parte dei casi sappiamo cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Il problema è che ce ne dimentichiamo. Ad esempio, sappiamo che è molto importante trattare bene la persona con cui siamo sposati, ma chi lo fa oggi? Nessuno. E il motivo per cui non lo facciamo è perché non c'è nessuno che ci ricorda cosa sia giusto e cosa sbagliato. Un buon aspetto delle religioni è che loro sanno che ci dimentichiamo sempre di tutto e così continuano a ricordarci cosa è giusto e cosa sbagliato. Quello che sto cercando di dire è che il vero problema nel mondo moderno non è che non sappiamo cosa sia giusto o cosa sia sbagliato, è che dimentichiamo cos'è giusto. Nel suo libro lei insiste sul tema della formazione e dell'arte e considera la cultura in generale come la nuova forma di religione dei nostri tempi e i musei, le università e le scuole come le nuove chiese del giorno d'oggi. Ecco, quali sono i limiti di questa cultura così laicamente intesa? Lei è molto critico in molte parti del suo libro. Credo che uno dei problemi della società moderna è che la gente pensa che una volta che sei adulto non hai bisogno di aiuto, non hai bisogno di una guida. Il cattolicesimo, ad esempio, tratta tutti come se fossero dei bambini e questo non è offensivo, perché siamo tutti bambini di fronte a Dio. È una bellissima idea e la psicanalisi la sottoscriverebbe. Siamo tutti bambini che hanno bisogno di aiuto. Ma se vai in un museo o leggi un romanzo moderno o altri libri contemporanei, non ci trovi nessuna guida, nessun aiuto, perché le persone intelligenti pensano che una volta diventati adulti non abbiamo più bisogno di aiuto. Su questo invece la religione la pensa diversamente. Io credo che la cultura possa aiutarci a vivere e possa sostituire la religione in molti casi, ma il modo in cui viene insegnata la cultura e il modo in cui viene presentata con i suoi musei, le sue scuole e le sue università non ci aiuta. E infatti a un certo punto lei polemizza con l'arte contemporanea dicendo che appunto non si riesce a fare comprendere dalla gente. È vero, quando entriamo in una chiesa e osserviamo le opere d'arte capiamo perfettamente perché quelle opere siano lì. Lo scopo dell'arte è quello di aiutarci a vivere bene. Quando invece andiamo in un museo moderno e osserviamo le opere d'arte, spesso non capiamo perché sono lì. E la ragione è che l'arte moderna è come se veicolasse uno strano messaggio, secondo il quale non è serio raccontare al pubblico in modo esplicito quale sia il significato di quelle opere. Caravaggio invece ci spiegava bene qual era il significato delle sue opere, che avevano una funzione molto chiara. Nel mio libro sostengo che dovremmo imparare dal modo in cui la religione utilizza l'arte e che la società moderna secolare dovrebbe usare l'arte per le stesse ragioni per cui la usa la religione. Ovvero per dare ispirazione, per consolare e per insegnare alla gente come vivere. Un punto interessante del suo libro è la sua polemica sul vuoto dello spazio pubblico. Secondo questa tesi bisognerebbe che gli spazi pubblici non fossero inquinati da presenze religiose, ma lei stesso per esempio osserva che poi accettiamo tranquillamente che lo spazio pubblico sia inquinato e occupato ossessivamente per esempio dalla pubblicità che lei spiega può far male molto peggio della religione. Ecco, alla luce di queste osservazioni, qual è a suo parere il ruolo della religione e della chiesa nel dibattito pubblico delle nostre società? Il problema è che spesso, in molti aspetti importanti della vita, le religioni sono rimaste le uniche a parlare. Così, quando c'è una grave crisi morale, a chi ci rivolgiamo? Ci rivolgiamo a un religioso. Quando la gente è preoccupata per l'assenza di moralità, si rivolge sempre ai religiosi. Non credo ci sia una ragione particolare per cui accade questo, ma è semplicemente perché la società secolare non è ben organizzata. Così, in aspetti come la moralità o la comunità, non abbiamo niente di simile, niente in comune con la Chiesa Cattolica. La mia idea è che dovremmo imparare da sistemi come quello della Chiesa Cattolica, che è un sistema straordinario. Ma anziché tornare al cattolicesimo, dovremmo rubare al cattolicesimo in modo da imparare le migliori lezioni di un sistema che contiene molte cose buone in sé, ma che molte persone considerano impossibili nel mondo moderno. Ma i suoi amici atei come hanno reagito? Si sono sorpresi del suo libro? Penso di sì, perché quando sei ateo si presume che tu debba odiare la religione e parlare sempre di inquisizione e di preti pedofili. Certo, le religioni sono responsabili anche di disastri, ma non è questo che mi interessa. Queste cose le conosciamo tutti e alla fine continuare a menzionarle diventa poco interessante. Credo che sia più importante dire che in mezzo a tutte queste cose terribili della religione ci sono anche molte cose interessanti e troppo spesso i relativisti non prendono in considerazione questi aspetti. Una guida spirituale che in questi anni si è meritato grande rispetto anche da parte di chi non crede è l'ex arcivescovo di Milano Dionigi Tettamanzi, che sarà sostituito ufficialmente proprio domenica prossima dal cardinale Angelo Oscola, che prenderà possesso appunto della sua sede domenica 25. Di Tettamanzi esce un libro dedicato appunto alla città di cui è stato pastore, La città in cui credo, Milano, la speranza possibile, pubblicato da Rizzoli, 236 pagine, 15 euro. Qui troviamo raccolti i 9 discorsi che nel periodo della sua permanenza a Milano il cardinale Tettamanzi ha rivolto alla città in occasione della festa del patrono di Sant'Ambrogio. Un'occasione colta sempre per fare alcune riflessioni sulla condizione della città, alcune delle quali hanno anche suscitato molte polemiche o ha incontrato grandi apprezzamenti, e quindi questa è un'occasione interessante per conoscere meglio quest'uomo di chiesa, ma soprattutto per approfondire attraverso le sue riflessioni le condizioni della città, alla quale Tettamanzi a mo' di congedo rivolge l'invito di credere nella speranza. Solo una vera speranza, scrive, può rigenerare la moralità della città e assicurare a tutti i suoi abitanti e a quanti a esse ricorrono un'autentica primavera sociale. E a questo punto il confettino. Propongo ai nostri giovani lettori un tema che ha bisogno anch'esso di un grande coordinamento internazionale. Il libro si intitola Il misterioso mondo delle balene di Charles Siebert, illustrato da Molly Baker e tradotto da Flavio Genovesi per Gallucci, 116 pagine, 16,50 €. Questo è un libro benedetto dal WWF che parla appunto del mondo affascinante e a rischio purtroppo delle balene, presente nei miti di tanti popoli, nella letteratura e nell'immaginario collettivo. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Continuano le turbolenze finanziarie. Allora diamo la parola a uno dei protagonisti, almeno lo è stato fino a pochi mesi fa, dell'economia e della politica internazionale, cioè Gordon Brown, che è stato cancelliere dello scacchiere, cioè il ministro dell'economia della Gran Bretagna, per 10 anni fino al 2007, e poi dal 2007 fino al 10 maggio 2010 è stato anche il primo ministro, quello che ha sostituito Tony Blair per poi essere sconfitto alle elezioni. Il libro di memorie che pubblica adesso si intitola Oltre il crollo, come superare la crisi della globalizzazione, pubblicato da Rizzoli Etas, 332 pagine, 23,90 € ed è tradotto da Matteo Vegetti. Brown non vuole limitarsi qui a raccontare della crisi, ma soprattutto vuole spiegare gli errori che l'hanno provocata e indicare alcuni rimedi. Si parte nella sua narrazione da una drammaticissima notte in aereo, giusto 3 anni fa, il 26 settembre del 2008, quando, tornando da Washington, Brown decide sostanzialmente di nazionalizzare un po' di banche inglesi in grossa crisi, in pericolo di fallimento. E da lì ripercorre appunto tutta la vicenda, guarda l'indietro per trovare le cause di questa crisi e si sofferma sui rimedi. E su questi Brown insiste sull'esigenza di un processo globale di crescita, una crescita che sarà necessariamente eterogenea, meno forte negli Stati Uniti e in Europa, più forte in Cina, India, nei nuovi paesi a grande industrializzazione. Ma nessuno, avverte, può fare da solo. Nessuno, scrive, in questa fase può fornire una crescita abbastanza significativa da incrementare l'attività economica mondiale in misura sufficiente a ridurre sostanzialmente la disoccupazione. Tuttavia, aggiunge, sono convinto che insieme, attraverso la cooperazione e il coordinamento globale, possiamo riuscire a generare nel prossimo anno, in quelli a venire, livelli di crescita superiori alle aspettative odierne. Questo naturalmente è la grande speranza di tutti, perché se non c'è la crescita, la crisi è destinata ad abitarsi su se stesso. E qui Gordon Brown poi esamina i vari scacchieri dell'economia internazionale e parla naturalmente anche dell'Europa, scrivendo che l'Europa e l'Eurozona dovranno attuare rapidamente una serie di riforme puntando sulla competitività, la produttività e i posti di lavoro. L'obiettivo di accelerare la ripresa dell'occupazione dalla recessione giustifica ad attuare con rinnovato slancio il programma basato sul mercato unico. Ma, di nuovo, insiste Brown, per tutto questo serve un nuovo patto globale. Infine, la parte alla quale probabilmente l'autore tiene di più, che è quella dedicato a un richiamo molto forte che fa all'etica del mercato. Sentite per esempio queste righe che dedica appunto a questo tema. È interessante ricordare che Adam Smith non sostenne che il tornaconto personale fosse la virtù più ammirevole. bensì che l'assennatezza, l'umanità, la giustizia, la generosità e lo spirito civico fossero le qualità più utili nei confronti degli altri. Affermare che i mercati necessitano di un'etica, dunque, non significa criticarli, ma semplicemente riconfermare ciò che questo grande teorico dell'economia, nato nella mia stessa cittadina, sostenne tanto tempo fa, che l'economia di mercato deve rispettare determinate regole. Per il mondo odierno, ciò significa che la gestione dei mercati deve trovare un equilibrio tra il necessario incoraggiamento ad assumere rischi e gli opportuni criteri di responsabilità. Voglio che la concorrenza si sostenga su un'etica non perché sia contrario alla concorrenza, ma perché voglio che operi nel pubblico interesse. Quindi Gordon Brown, come sentite, non è certamente contrario alla globalizzazione, ma insiste e vuole dimostrare in questo libro l'urgenza di procedere a una sorta di governo mondiale che riesca a fare ripartire la crescita. Serve un accordo collettivo e questo è uno degli obiettivi più difficili naturalmente da raggiungere proprio in questo periodo, perché abbiamo visto quanto sia difficile coordinare politiche economiche che vanno un po' per conto loro. Ma su questo tema del governo globale e della globalizzazione interviene un altro studioso che è collaboratore di prestigiose riviste e giornali internazionali, è l'indiano Parag Khanna. Il suo libro si intitola Come si governa il mondo, è pubblicato da Fazzi, 360 pagine, 19 euro ed è tradotto da Cecilia Della Casa e Franco Motta. Se Brown invoca appunto questo grande accordo, Khan sottolinea come mai in questa fase il mondo abbia bisogno di una nuova, più efficace diplomazia. È affascinato l'autore dal paragone col passato che gli permette di costruire un parallelo con l'America di oggi. E allora, se vogliamo costruire un nuovo rinascimento che superi il rischio di piombare in un nuovo medioevo, scrive Khan, è inutile perdere tempo con i luoghi comuni. Scrive infatti l'autore, i tipici libri di politica internazionale si concludono con una serie di luoghi comuni sulla razionalità, la creatività, il buon senso, la generosità, la gentilezza, il cosmopolitismo, la democrazia e l'umanesimo di cui il mondo ha maledettamente bisogno. E qui appunto Khan scrive quelli che sono a suo parere i requisiti di questo nuovo rinascimento che è possibile costruire. Non c'è alcuna speranza, aggiunge, di costruire un'autorità sovranazionale stimata da tutti in grado di coordinare il mondo, ci vogliono tanti sforzi che condividano questo obiettivo. E quindi conclude l'autore, il prossimo rinascimento sarà una questione che riguarderà l'espansione esponenziale consapevole delle interconnessioni. L'unica risposta al futuro del governo globale sarà quella che prenderà la forma di un bricolage di movimenti, esperimenti di governo, network, regolamenti soft e tutti gli altri sistemi che possono emergere a livello locale, regionale e globale. Se Brown invoca nel suo libro un grande accordo, Khanna sottolinea come mai in questa fase il mondo abbia bisogno di una nuova, più efficace diplomazia. È affascinante il paragone che egli compie con il passato, un paragone che gli permette di costruire un parallelo con l'America di oggi, che molto spesso si suole paragonare alla Roma antica per additarne i rischi di decadenza, e invece Khanna segue un altro paragone. Sentite appunto cosa scrive sull'America. I confini degli imperi sono porosi, non permeabili. Più potenze sorgono, più il mondo si apre. Cosa significa tutto questo per un'America che non controlla più il processo di globalizzazione? Al posto del solito paragone con la Roma antica o con la Prussia del XIX secolo, ritengo che sia più adatta all'analogia medievale con l'impero bizantino. Bisanzio ha scongiurato il crollo per tutto il corso dell'età di mezzo, fino al XV secolo, estendendo la propria influenza attraverso lo spionaggio, la corruzione e le alleanze. Persino quando non era più in grado di imporsi nel caotico mondo del Medioevo, Bisanzio restava una forza militare, economica e culturale di primo piano. Dopo un decennio di interventismo a guida americana, responsabile di danni non necessari, è difficile prevedere che Washington potrà riguadagnare la statura internazionale di cui ha goduto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e persino della Guerra Fredda. La visibilità degli Stati Uniti può essere globale, ma la loro reale influenza si riduce a fattori molto specifici. Dove è attivo l'esercito? Dove stanno investendo le aziende? Quali lobby stanno elaborando una data politica in un dato territorio? Sono questi elementi, e non la retorica della nazione indispensabile, il modo migliore per inquadrare la perdita di status dell'America in un mondo sempre più complicato. E allora, dice Kahn, se vogliamo evitare di ripiombare nel Medioevo e vogliamo costruire un nuovo rinascimento, è inutile perdere tempo con i luoghi comuni come la razionalità, la creatività, il buonsenso, la generosità, la gentilezza, il cosmopolitismo, la democrazia e l'umanesimo di cui il mondo ha maledettamente bisogno. Questo lo scrive lui. Non c'è alcuna speranza, secondo l'autore, di costruire un'autorità sovranazionale stimata da tutti e in grado di coordinare il mondo, e invece è molto più probabile che il nuovo assetto internazionale sarà una questione, scrive, che riguarderà l'espansione esponenziale e consapevole delle interconnessioni, cioè l'unica risposta al futuro del governo globale sarà quella che prenderà la forma di un bricolage di movimenti, esperimenti di governo, network, regolamenti soft e tutti gli altri sistemi che possono emergere a livello locale, regionale e globale. E prima di salutarci vi ricordo che oggi si conclude a Pordenone Pordenone Legge, festa del libro con gli autori. Vi segnalo gli appuntamenti più significativi: Storia di Sicilia con Pietrangelo Buttafuoco e Giuseppina Torregrossa alle 15 e poi Simonetta Agnello Orbia alle 15:30. Natalino Balasso, che viene intervistato da Sergio Frigo alle 15:30, un incontro con Zygmunt Bauman sul tema dell'emigrazione alle 16 e infine alle 21 un recital di David Riondino su Cavour Mon Amour. E a questo punto ringrazio Luca Cremonese in redazione, Mauro De Angeli e Alessandro Chiappini in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, sul quale potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.